Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 22 marzo, io sono Alessandro Albana e vi do il benvenuto a questa puntata. Oggi parleremo di una delle vicende, dei processi che coinvolge il nostro paese e in particolare il mondo dell'università e della ricerca, che da mesi ormai sono attraversate da una lunga contestazione che ha preso di mira alcune delle mosse, delle decisioni di questo governo, quindi del governo Meloni e anche di quello precedente, capitanato da Mario Draghi. L'oggetto del contendere oggi è la cosiddetta riforma del preruolo, riforma che prende il nome dalla ministra dell'Università e della Ricerca Bernini. La riforma attualmente ha la forma di un disegno di legge, il numero 1240, quindi fino a questo momento non è stata approvata, però porta con sé una serie di misure piuttosto contestate e anche piuttosto in continuità con il percorso che la ricerca e l'università hanno tristemente intrapreso in questo paese ormai da decenni. Ci ricorderemo sicuramente tutti le grosse manifestazioni che hanno preceduto l'approvazione della riforma Gelmini nel 2010. L'approvazione, secondo alcune stime, metterebbe a rischio un terzo dei 30.000 precari dell'università. Intanto quello che si può rilevare sono i noti, consueti e usuali tagli al finanziamento, al fondo di finanziamento ordinario per l'università. Si parla di 500 milioni di riduzione del fondo nel 2024 e di oltre 700 milioni per gli anni compresi tra il 2025 e il 2027. I precari, come spesso accade, sono al centro di questa riforma e saranno sicuramente le vittime sacrificali più significative, importanti e anche più frequenti di questi tagli e della riforma. In Italia, secondo le stime, ci sono 20.000 assegnisti e 9.000 ricercatori junior, insomma il 40%, come dicevamo, di tutto il personale universitario è composto proprio da precari, e a questo 40%, ma non soltanto a loro, si rivolge proprio la scure della riforma in oggetto. Ma che cosa c'entrano le vicende legate alla riforma dell'università in Italia con eventi e processi di respiro internazionale? All'inizio di febbraio l'Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca in Italia si è rivolta con un esposto direttamente alla Commissione europea per denunciare e accendere un faro su quanto sta accadendo in Italia e su tutte le contraddizioni che con le riforme di cui abbiamo fatto menzione vengono sempre più a galla. Ma per cercare di capire meglio i risvolti e le implicazioni e le ragioni di queste vicende, vi chiedo di attendere qualche minuto prima di rivolgerci all'ospite di questa puntata. Over. Sina i Messines con il loro nuovo singolo Previous Life. Bentornate e bentornati a questa puntata di Bologna e dintorni. Oggi, come anticipato durante l'introduzione, parleremo di quanto sta accadendo in Italia, dei risvolti europei che stanno interessando la riforma dell'università e della ricerca. E per approfondire questo tema siamo oggi in collegamento con Paolo Paparone, membro della Segreteria Nazionale di ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia. Buongiorno Paolo e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi. Dunque Paolo, all'inizio del mese di febbraio ADI ha presentato un esposto alla Commissione europea per segnalare alcuni aspetti critici che riguardano la cosiddetta riforma delle carriere dei ricercatori in Italia. Ci aiuti a capire meglio i contenuti dell'esposto e quelli della riforma a cui l'esposto fa riferimento? Tutto parte, diciamo, dal 2022, cioè eravamo in fase di attuazione del PNRR e venne emanata quindi di conseguenza una legge, la 79 del 2022, cosiddetta PNRR bis, qui titolo completo, era misure urgenti in attuazione del PNRR. Questa legge prevedeva appunto una riforma complessiva del sistema di reclutamento all'interno dell'università, venivano abolite le precedenti figure degli assegni di ricerca e unificate le figure del RTDA e RTDB, due figure di ricercatori che servivano appunto come presupposto per accedere poi alla stabilizzazione, e veniva quindi introdotto in sostituzione dell'assegno di ricerca un rapporto di lavoro, diciamo, molto controverso, unicum a livello europeo, veniva sostituito da un vero e proprio contratto di ricerca, che è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti con annessi diritti e tutele, e veniva unificata la figura degli RTDA e delle RTDB in un'unica figura, che è quella dell'RTT, che porta poi dopo 6 anni, se si è in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, a diventare a tutti gli effetti professore associato e quindi essere stabilizzato. La riforma tuttavia ha avuto un percorso di attuazione molto travagliato. Fino al 31 dicembre 2024 sono stati infatti prorogati gli assegni di ricerca, e nel frattempo è stato bloccato all'ARAN il contratto di ricerca, che essendo appunto un contratto necessitava di essere inserito in una contrattazione collettiva, sul quale il governo ha fatto uno ostruzionismo molto forte, non dando indicazioni. Alla fine, finalmente, il 9 ottobre 2024 è stata firmata la sequenza contrattuale del contratto di ricerca, tra l'altro regolando sostanzialmente unicamente la retribuzione, diciamo un compromesso al quale sono arrivati i sindacati confederali al fine di far partire il contratto di ricerca, una regolamentazione minimale. Non sono regolati tutta un'altra serie di istituti. Tuttavia, dopo questa firma all'ARAN, era necessaria la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato, previo via libera del Consiglio dei Ministri, che è stata sostanzialmente bloccata fino al 7 febbraio 2025. Quindi, da poco. In ragione di ciò, noi, notando che appunto veniva sostanzialmente ostacolata il percorso di una riforma che dava attuazione a obblighi europei, quelli del PNRR, abbiamo presentato un esposto, tanto in virtù di questo, perché appunto tutte queste azioni messe in pratica al governo a noi paiono costituire appunto una violazione degli obblighi europei, sia perché nel frattempo la ministra Bernini ha proposto una nuova riforma, il DDL 1240, che sostanzialmente non solo introduce nuove figure precarie, ma fa fare un salto indietro, sostanzialmente forse addirittura alla legge Gelmini, introducendo delle figure che hanno ben poche tutele. Giusto a titolo di esempio, tra queste figure ci sono le cosiddette borse di assistenza alla ricerca, che non hanno la DSCOL, che è stata una grande conquista che noi di ADI abbiamo ottenuto nel 2017 e che appunto serviva a dare un sussidio di disoccupazione agli assegnisti e ai dottorandi pure, che finivano il loro percorso. Quindi sostanzialmente si faceva un passo indietro. La riforma ancora non è stata approvata, anzi è bloccata allo stato attuale, grazie all'esposto di ADI, a cui è seguito poi anche un esposto di FLC. Crediamo perché si sia reso conto anche il governo che questa riforma avrebbe proprio messo nero su bianco che non c'era intenzione di attuare gli obblighi che si erano presi in sede di PNRR. Rimarrei nell'ambito europeo perché il vostro esposto chiama in causa direttamente la Commissione europea. Rimanendo nella cornice europea, ti chiederei, Paolo, qual è lo stato di salute dell'Accademia dell'Università e della ricerca in Italia rispetto a quanto accade in altri paesi europei. Conosciamo bene la piaga, il morbo ormai strutturale del sottofinanziamento, i tagli approvati non ultimo dalla ministra Bernini al fondo di finanziamento ordinario. Questa è una delle dimensioni più note, se non la più nota, ma viene da pensare che i problemi non si limitino a questo per quanto riguarda università e ricerca in Italia. Ci aiuti a fare chiarezza in questo quadro, sempre molto Allora, negativo. andando al contesto europeo, ti dico subito riguardo al finanziamento che sostanzialmente l'Italia è fanalino di coda nell'Unione Europea. Noi spendiamo il 3% in ricerca, mentre l'obiettivo che si è posto i paesi dell'Unione Europea è quello del 3%. Quindi siamo molto indietro proprio sul piano del finanziamento. Poi noi, gli ADI, facciamo parte di Eurodoc, che è l'organizzazione che riunisce, diciamo, le organizzazioni di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori postdoc a livello europeo. Sostanzialmente da Eurodoc abbiamo un quadro completo di questa situazione. In realtà nel 2023 sono state emanate delle linee guida nel quadro della Carta Europea dei Ricercatori, che è appunto il manifesto che dovrebbe un po' guidare le politiche in ambito della ricerca, che aveva come obiettivo proprio quello di rendere delle carriere meno precarie, più stabili e soprattutto intercambiabili fra i vari paesi europei. Quindi il percorso dove vanno i paesi europei è proprio quello di un maggior allineamento. Noi dell'Italia invece siamo molto indietro. La riforma Bernini in realtà va in direzione completamente opposta a quella dove stanno andando i paesi europei. Si registrano miglioramenti sul piano normativo delle carriere in quasi tutti i paesi europei, addirittura nell'Ungheria di Orban, dove c'è un serio problema appunto di controllo politico dell'università, si stanno facendo degli avanzamenti in realtà a livello normativo delle carriere. Quindi noi siamo indietro sostanzialmente tanto sulla regolazione delle carriere, sia sul piano del finanziamento 1.3 contro il 3% che dovremmo raggiungere. Ecco, infatti, alla luce di queste premesse, in Italia da mesi è in corso una mobilitazione contro la cosiddetta riforma del pre-ruolo. Alcuni elementi li hai anticipati tu, anche il 20 marzo, quindi un paio di giorni fa c'è stata un'ultima tappa della mobilitazione contro la riforma. Che cosa è successo e che cosa sta succedendo sul fronte della contestazione alla riforma voluta dalla Bernini e da questo governo e ancora non entrata in vigore? Ma allora, la contestazione inizia da molto lontano, in realtà già dall'estate del 2024, quando si avevano le prime avvisaglie di una possibile riforma, è partita una campagna 90%, che è appunto 90% il numero dei ricercatori che attualmente viene espulso dal sistema, un numero veramente drammatico. Questa campagna mirava appunto a sensibilizzare su questo tema, in vista appunto di quello che ci appariva molto probabile, cioè l'arrivo di una riforma che avrebbe ulteriormente precarizzato le nostre vite. Ciò poi è arrivato e da ciò è iniziato un percorso di forte mobilitazione. Sono nate le cosiddette assemblee precarie in diverse città, tra cui Bologna. A dicembre 2024, quando il Ministero ha organizzato insieme alla CRUI, che è la conferenza che riunisce i rettori delle università italiane, una giornata un po' di esaltazione dell'università italiana per come ora, gli stati generali della CRUI, si è avviato un percorso che comprende ADI, FLC-CGIL, ARTED, che è un'associazione di ricercatori a tempo determinato, diverse realtà, diverse assemblee precarie. Abbiamo lanciato il cosiddetto percorso degli stati di agitazione, in risposta a questo, che appunto si propongono di dare vita a un'altra università, di respingere il DDL Bernini, due appunto di costruire un modello nuovo, più inclusivo, più accessibile. Poi, grazie all'esposto nostro e di FLC, la riforma attualmente è bloccata, non escluso però che riprenda magari in una versione modificata nei prossimi giorni. Nell'esposto noi chiediamo per esempio di avere accesso alla documentazione relativa ai rapporti fra Commissione Europea e Governo, ancora non ci è stata data, per capire appunto come sta andando questo dialogo. Allo stato attuale c'è stata la mobilitazione del 20 in tutta Italia, con diverse modalità, lezioni in piazza, giro per la città, cioè si sta cercando di sensibilizzare tutta la cittadinanza su questo tema, tutta la cittadinanza e tutte le componenti universitarie. Noi riscontriamo, a livello di Università di Bologna, che ci sia molta freddezza su questo tema, soprattutto da parte della componente docente, cioè dagli strutturati che, tanto il modello di rappresentanza che è uscito dalla legge Gelmini, sono sostanzialmente quelli che decidono negli organi rappresentativi dell'università. Qualcuno si è espresso a parole, anche perché la ministra, quando ha annunciato la sospensione della riforma, ha fatto una sorta di chiamata alle armi da parte dei rettori e dei professori nel chiedere di sostenere la ripresa di questa riforma, qualcuno si è espresso, qualcun altro si è espresso contro, però la posizione, diciamo, della classe dirigente dell'università ancora è abbastanza defilata, anche se sembra che stiano andando verso il sostegno appunto al DDL Bernini, magari in forma modificata. Tra questi c'è pure l'Università di Bologna, per esempio. Ecco, a questo punto arriviamo all'ultima domanda di questa intervista e quindi all'ultimo segmento di questa puntata. Vorrei chiederti, già che lo hai menzionato, proprio quanto sta accadendo all'Ateneo Bolognese. Abbiamo visto le immagini degli scontri delle cariche della polizia contro i manifestanti che sono scesi in piazza in maniera anche piuttosto goliardica e divertente, in una sorta di carnevale, per contestare l'inaugurazione dell'anno accademico all'inizio di marzo. Ti chiederei a questo punto che cosa sta succedendo all'Ateneo Bolognese relativamente invece a questa più grande mobilitazione, a questi processi di respiro più ampio che riguardano l'Italia e per quale ragione o per quali ragioni abbiamo assistito alle proteste di questi mesi e quali sono le posizioni della governance dell'Alma Mater Studiorum che sono state al centro e sono tuttora al centro della contestazione. Faccio una puntualizzazione su quanto detto per il corteo dell'inaugurazione dell'anno accademico. In quel caso, per l'inaugurazione dell'anno accademico, c'era stato un accordo in realtà fra il corteo che era organizzato dall'Assemblea Precaria Bolognese e la governance per avere un intervento. Quindi si sapeva che ci sarebbe stato un corteo e sarebbe arrivato là. Nonostante questo, c'è stato un dispiegamento di forze che era veramente ingiustificato, che poi è risultato appunto in quelle cariche che dicevi tu. Su questo, tra l'altro, abbiamo sollecitato anche da parte dei partiti di opposizione delle interrogazioni parlamentari su quella gestione dell'ordine pubblico che non si è mai vista. Ma su questo, da parte della governance, noi registriamo posizioni fortemente contraddittorie. A dicembre il rettore si era impegnato in senato accademico, dietro una nostra mozione, a protestare in cui contro i tagli e contro il DDL Bernini. Ora la sua posizione sembra essere radicalmente cambiata. Nell'ultimo senato accademico è stato detto che sostanzialmente lui è per l'approvazione della riforma, perché questo abbiamo, anche se non gli piace, che il contratto di ricerca non può essere l'unico strumento che regola la carriera postdoc, ci dicesse almeno quali sarebbero gli altri strumenti che vuole. Forse se fossero minimamente dignitosi potremmo anche parlarci, e soprattutto sul finanziamento non registriamo una posizione forte, stranamente, anche perché la CRUI all'inizio, specialmente dietro la sua presidente Giovanna Iannantuoni, si era espressa fortemente contro i tagli. Ora è una posizione che si è ammorbidita da parte di tutti i rettori, anche perché la realtà è che il contratto di ricerca con un finanziamento adeguato potrebbe sicuramente essere abbastanza per il periodo postdoc. All'Unibo, appunto, oltre a quanto abbiamo già detto, il 19 marzo si è attivato uno spazio di agitazione a Palazzo Ercolani presso l'aula Emma Pezzemo, che vuole essere uno spazio di confronto tra le diverse componenti universitarie, personale tecnico-amministrativo, componente studentesca, componente appunto precaria, dottorandi, ricercatori, eccetera, e professori soprattutto, che sono i grandi assenti, diciamo, sul dibattito pubblico su questa questione, se non con le dovute eccezioni. Questo spazio si riunisce appunto ogni martedì e punta appunto a creare dei momenti di confronto fra queste componenti e a capire come mobilitarsi per difendere un sapere che sia libero e indipendente in maniera effettiva e non solamente sulla carta. Però, ripeto, da parte dell'Università di Bologna c'è molta freddezza, molta contraddittorietà, sembra quasi che sia accettata un po' l'idea che noi ricercatori e ricercatrici non siamo riconosciuti pienamente come lavoratori e lavoratrici, ma appunto ci impegneremo affinché questa idea entri anche nelle loro teste e nei loro programmi. Bene Paolo, doloroso chiudere con questa amara constatazione, purtroppo visto lo stato di salute dell'università e della ricerca, da anni ormai in questo paese viene ancora tristemente da dire che ci abbiamo fatto l'abitudine, ma è bene insomma non abbandonarsi e non abituarsi a questo tipo di condotte. Paolo, il nostro tempo è finito, io ti ringrazio moltissimo per averci accompagnato in questo viaggio dell'orrore, mi viene un po' da dire, nella speranza che le cose cambino. Grazie ancora Paolo Paparone. Grazie a voi, a presto. La puntata di oggi termina qua. Prima di chiudere vi do un'informazione di servizio. Per il mese di aprile Bologna e dintorni non andrà in onda, ci prendiamo una breve pausa, ma non temete perché torneremo regolarmente su queste frequenze a partire da sabato 10 maggio. Noi comunque ci risentiamo il prossimo sabato 29 marzo. L'emittente e le frequenze le conoscete già, sono quelle di Radio Città Fucico.